antenna, stai usando questa antenna, stai dicendo Santiago 8, 6, 9, 10, qua tu. Non ho neanche antenna qua, sto andando con un'antenna di fortuna. bene, grazie, vi ringrazio, buon proseguo, a te Massimiliano. Ehi, è positivo, no, ce la stai andando perfettamente bene, là. È perfetto, perfetto, non ci stanno problemi. Ora, questo qua avevo fatto un accoppiamento, ho capito, siccome questa radio la risolvo con un palmare prima, non era una grande, non aveva una grande modulazione, quindi ci ho accoppiato un MB più 5, capito? Fa chiamare Uranus. segna tutto. Ripeto, il numeretto dei canali non te lo segna, segna le frequenze. Thank you. buonasera Massimo, buonasera anche a Gianni, e mi stavo ascoltando, perché mi tratto per una battutina così, 0x40 comunque, va benissimo, ma in ascolto Massimiliano, buon proseguimento, salutami la persona Granletta. Era positivo, grazie Gio Maria, da parte sua ce l'ha fatto. Ok, dai, buon correttivo e buona serata, ciao ciao. Ciao anche a Gianni, dai. Allora lo usiamo così già, dai, che così va bene, c'ha dei bei picchi, la radio va bene, 9 watt, non disturba, va benissimo, dai. Un altro tipo di cavo, abbiamo guadagnato qualcosa anche in trasmissione e in ricezione. A te il microfono, Gianni Dinamite. E vabbè, stiamo parlando del più del meno, no? Stiamo parlando di cose molto importanti. Okay. cambio